Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, è giovedì 18 luglio 2013, 105esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La voce che vi arriva è quella di Camilla Lattanzi, che vi saluta e vi invita a rimanere all'ascolto. Oggi vi parleremo della taglia da Far West che pende sull'assassino dell'orso marsicano Stefano, recentemente ucciso. Cercheremo poi di consolarci con la ricetta di una torta tatin, zucchine e pomodori molto estiva. Ma per cominciare alla grande vi faremo conoscere Martin Balluch, un attivista straordinario che abbiamo intervistato solo pochi giorni fa. Nato in Austria, classe 1964, laureato in fisica e matematica, PhD in astrofisica, ha insegnato nell'università prima di diventare un animalista a tempo pieno. È uno degli attivisti per i diritti degli animali più noti al mondo, ha contribuito alla fondazione della Vegan Society in Austria, e dal 2002 è il presidente dell'associazione austriaca contro le Tierfabriken, parola traducibile come fabbriche di animali o allevamenti intensivi. Anche il filosofo Peter Singer parla bene di lui, dicendo che Balluch è uno dei più promettenti attivisti per i diritti degli animali. Martin Balluch è forse l'attivista che ha incassato il maggior numero di successi, dalla messa fuori legge dei polli in batteria fino a quella per i circhi con animali. Per ottenere questi successi, però, Balluch ha pagato un prezzo molto alto. Ha sperimentato le violenze della polizia, la galera, uno sciopero della fame che lo ha portato fino all'alimentazione artificiale, una serie di processi dai quali è uscito sempre a testa alta. L'Austria è un paese dove è da qualche anno vietato l'uso degli animali all'interno dei circhi. Martin, come è stato possibile arrivare a questo risultato? Che tipo di iniziativa avete svolto per arrivare a questo risultato, a questa legge? Natürlich eine sehr mühsame und langwierige Geschichte. Wir haben 1996 damit begonnen. Sì, dice che è stato un processo veramente lungo e faticoso e sofferente. Dice, loro hanno cominciato nel 96 appunto a filmare gli animali nei circhi e tutte le sofferenze a cui andavano incontro, e che in questo modo poter documentare e arrivare all'opinione pubblica e appunto arrivare fino all'abolizione della legge. Und von 1996 bis 2002 haben wir die meisten Zirkusveranstaltungen waren wir dort und haben diesen Film gezeigt der Öffentlichkeit. Soprattutto dal 96 al 2002 tutto questo materiale filmato lo hanno proiettato di fronte ai circhi, visibile per i visitatori. Qual è stata la reazione dei proprietari dei circhi rispetto a queste vostre campagne? Sehr, sehr gewalttätig. Also, mehrmals wurden wir überfallen, es wurde unser Material zerstört. La reazione dei proprietari è stata violentissima. Appunto, sono stati attaccati più volte, gli è stato portato via il materiale. Il loro avvocato ha avuto il naso rotto in seguito a questo. Però diciamo che la violenza che loro stessi hanno, con la violenza stessa con cui loro hanno reagito, gli si è ritorta contro, nel senso che dopo l'opinione pubblica ha potuto vedere, e alla fine il giudizio è andato dalla parte giusta. In che modo l'idea di proibire l'uso degli animali nei circhi è arrivato in Parlamento? C'è stato un partito che se l'è preso a cuore questo progetto, un singolo parlamentare? Qual è stato il percorso? Ja, wir haben zunächst einmal erreicht, dass die Menschen weniger in Zirkusse gehen. Die Zirkusse haben eine wirtschaftliche Machteinbuße gehabt, sodass kein Einfluss mehr war auf die Politik. Das ist einmal wichtig. Diciamo che il percorso è stato questo. Innanzitutto questo ha portato a una minore popolarità dei circhi. E per quanto riguarda invece i partiti, ogni partito ha un referente per quanto riguarda i diritti degli animali e i diritti dell'ambiente. Loro stessi hanno preso coscienza, grazie appunto a questa documentazione, hanno preso coscienza di questo e quindi grazie a questo si è potuto lavorare per arrivare all'abolizione. C'è un altro ambito della lotta animalista che può arrivare allo stesso risultato al di fuori del circo? Naja, wir haben auf verschiedenen Ebenen schon solche Kampagnen gewonnen. Wir haben 1998 ein Pelzfarmverbot erreicht, 2002 das Zirkus, Wildtierverbot im Zirkus. Insomma, sono stati raggiunti appunto molti altri risultati, sempre con lo stesso metodo di confrontatore, cioè di confrontarsi con le persone, di dare l'informazione, di documentare quello che appunto è stato visto. Non solo l'abolizione degli animali del circo, ma si è potuto innanzitutto avere anche delle avvocature predisposte alla difesa dei diritti degli animali. Si è arrivati anche ai conigli in batteria e a diversi altri ambiti. Die Taktik dabei war immer sehr konfrontativ zu sein. Die Politik will eigentlich nichts ändern, wenn alle freundlich sind. Sì, puntualizza appunto quel metodo confrontativo nel senso di mettersi proprio completamente di traverso. Quindi lui dice, finché si è tutti amichevoli non c'è mai, non si muoverà mai niente. Fondamentalmente il politico non cambierebbe mai nulla, quindi bisogna proprio andare nelle fabbriche, mettersi di fronte, occupare le fabbriche, altrimenti pestare i piedi, pacificamente ma pestare i piedi. Solo in questo modo si può arrivare appunto, quando anche la politica dopo non può più ignorare tutto questo, si arriva a un cambiamento. Ma ich wurde mit 18 vegetarier. Weil ich einfach zum ersten Mal die Verbindung hergestellt habe zwischen dem Tier. Mi dice, sono diventato vegetariano a 18 anni perché ho capito veramente qual è il rapporto fra l'uomo e l'animale. Natürlich war ich und bin ich damit auch noch heute die Ausnahme. Comunque, nonostante fosse un'eccezione, ha notato che negli anni 80 la difesa degli animali, insomma, l'attivismo in questo senso poteva avere una valenza politica, quindi la capacità di poter cambiare le leggi e tutto quanto. Negli anni 80 c'era sempre più bisogno di questo e lui si è innescato in questo movimento appunto. Ich komme an und für sich von der Umweltschutzseite. Diciamo, nel 94 dice che c'è stata l'emancipazione del movimento animalista dal movimento ecologista in generale, quindi da quel momento lì in poi è sempre stato attivismo animalista. Martin Balluch, restiamo animali? Restiamo animali. Nella home page del sito del Parco Nazionale d'Abruzzo campeggia la scritta «Qui la natura è protetta». Eppure domenica 7 luglio è stato ucciso dai bracconieri un orso marsicano di 10 anni circa in ottimo stato di salute che si chiamava Stefano. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato alle pendici del Monte Marrone nel comune di Castel San Vincenzo, Isernia, versante molisano del parco. Nel suo corpo sono stati rinvenuti almeno 3 colpi d'arma da fuoco, di diversa data e di diverso calibro, i quali testimoniano inequivocabilmente come l'animale sia stato più volte oggetto di atti di bracconaggio. La LAV, che aveva inizialmente messo in palio una taglia di 2.000 euro da concedere a chiunque sarà in grado di fornire informazioni utili all'individuazione degli assassini dell'animale, grazie alle donazioni di tanti cittadini ha aumentato tale taglia a 5.000 euro, a riprova del fatto che siamo ormai al Far West, e che solo un delatore potrà rompere il muro del silenzio che avvolge la triste fine di Stefano, uno degli ultimi orsi presenti sulle nostre montagne. L'associazione Salviamo l'Orso ha organizzato una manifestazione che si è tenuta domenica 15 luglio nei paesi di Castel San Vincenzo e Rocchetta Volturno. Lo slogan della manifestazione alla quale hanno partecipato un centinaio di persone è stato «Arrembaggio al bracconaggio», con l'obiettivo di condannare i fautori dell'omicidio, chiedendo un maggiore impegno sia da parte delle istituzioni che da parte dei cittadini. All'iniziativa hanno aderito diverse associazioni come Salviamo l'Orso, Feder Trek, Altura Mountain Wilderness Abruzzo e Lipu Molise, oltre ad alcuni esponenti del mondo politico, tra cui Grazia Francescato De Verdi, Maurizio Acerbo, consigliere regionale del Partito della Rifondazione Comunista e SEL Abruzzo. Gli orsi marsicani sono il simbolo del parco e rappresentano un'attrattiva turistica importante. ma sono anche una specie a rischio d'estinzione. Secondo le stime del Parco Nazionale, dal 1971 a oggi 18 orsi sono stati uccisi. A riprova dello stato di profondo abbandono del territorio. Terre di nessuno, dove, per colpa di alcuni irresponsabili, si rischia di compromettere un prezioso patrimonio biologico, verso il quale mancano investimenti pubblici adeguati e, se si va avanti, è grazie a donazioni private come quella della miliardaria americana Jenny, che nel 2006 aveva destinato 1 milione di euro al parco, al Corpo Forestale e alla Sapienza di Roma, proprio per la ricerca e la conservazione dell'orso marsicano. A riprova della inadeguatezza delle politiche ecologiche italiane attuate a ogni livello, il TAR dell'Abruzzo ha recentemente emesso una dura sentenza in materia di caccia che, secondo il WWF, promotore del ricorso, censura duramente l'operato della Regione Abruzzo, praticamente su tutte le sue scelte venatorie. Particolare rilevanza, sottolinea l'associazione ambientalista, acquista il giudizio sulla tutela dell'orso bruno. Mentre in tutto il paese le province consentono la caccia in deroga fuori dal periodo venatorio e in pieno periodo riproduttivo a nutrie, volpi, gazze, cornacchie, cinghiali e cervi, a livello nazionale il Ministero per l'Agricoltura, guidato da Nunzio De Girolamo, propone una riforma che dovrebbe consentire la caccia nei parchi e nelle oasi di protezione, l'eradicazione della fauna alloctona, la caccia sulla neve, la possibilità di uccidere specie di avifauna protette anche a livello internazionale durante i periodi di migrazione, di nidificazione, di dipendenza dei piccoli dalla madre, e non cancella dall'elenco delle specie cacciabili 19 specie di avifauna che a livello europeo sono considerate da proteggere. La più sfrenata schizofrenia permea le nostre relazioni con il vivente, per cui da un lato investiamo denaro pubblico in progetti come Life Arctos, Life Ursus, per la salvaguardia o addirittura per la reintroduzione dell'orso, e dall'altra legittimiamo chi, armato di fucile, ha come obiettivo stroncare vite animali. È vero che caccia e bracconaggio non sono esattamente la stessa cosa, ma è anche chiaro che l'uno alimenta l'altro e che i cacciatori di frodo hanno sempre un regolare porto d'armi in tasca, e di solito sono anche cacciatori. La guerra al vivente è esplicitamente dichiarata e noi, come cittadini, dobbiamo decidere da che parte stare. La redazione di Restiamo Animali sta dalla parte di chi spera che quei 5.000 euro siano superflui, che chi ha ucciso Stefano abbia un rigurgito di dignità e umanità e si costituisca, appendendo definitivamente al chiodo la sua doppietta insanguinata. Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Tonda neccia di maggio, come un formaggio dolanda. Monda la luna in viaggio ed è sorato. Ciao! Oggi prepariamo una bella torta salata. Una torta tatin, come direbbero in Francia, alle zucchine e pomodori. Con il termine torta tatin, in genere si intende una torta che ha la crosta di frolla sopra il ripieno e, una volta cotta, viene rovesciata. Per me, questa è un'idea geniale con le verdure, perché permette di mantenere la frolla fragrante e secca e non si inumidisce con il liquido che rilasciano appunto le verdure in cottura. Se, come è successo a me, un giorno che fa particolarmente fresco, decidete di accendere il forno per cuocere una pizza, una focaccia, approfittatene e preparate anche questa, che davvero vi assicuro merita. Gli ingredienti sono, per la pasta brisée vegan, 100 g di farina integrale, 100 g di farina bianca, 50 g di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di bicarbonato, sale e acqua tiepida quanto basta. Per il ripieno, una zucchina grande, 2 pomodori perini, 3 fiori di zucchina, ma sono facoltativi solo se li avete, un rametto di timo, origano, menta, abbondante pane grattugiato, lievito alimentare e olio extravergine d'oliva. Preparate per prima la brisée, impastando velocemente tutti gli ingredienti con tanta acqua tiepida quanto basta fino a ottenere un impasto bello sodo e omogeneo. Personalmente io ho usato metà farina integrale e metà normale, ma potete usare quella che preferite. Viene benissimo anche la versione con la farina di farro. Tagliate la zucchina a rondelle sottili, così come i pomodori. Dividete a metà i fiori di zucchina. Cospargete una tortiera con un filo d'olio e una bella spolverata di pan grattato. Disponeteci sopra le verdure in modo un po' carino. Cospargete ora le verdure con un trito generoso di erbe aromatiche, sale, pepe, un bel giro d'olio, qualche cucchiaio di lievito alimentare e abbondante pane grattugiato. Stendete la pasta brisée, mettetela sopra le verdure cercando di chiudere bene ai lati. Bucherellate nella superficie con un coltello. Mettete a cuocere in forno ben caldo a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Sfornatela, lasciatela raffreddare bene prima di rovesciarla su un piatto di portata e servirla. Ciao, alla prossima! Nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, oltre a tutti i contenuti e podcast di questa e di tutte le precedenti puntate, troverete anche gli aggiornamenti sulla situazione delle 100 volpi che la provincia di Prato continua a minacciare di morte e che gli attivisti continuano a tenere in vita grazie a una strenua mobilitazione. Per chiudere, una bella notizia: anche in luglio continua il ciclo degli apericena sulla questione animale a Settignano. La puntata del 31 luglio si intitolerà Cucinare con coscienza. Vi proponiamo infatti l'incontro con tre giganti toscani della cucina cruelty free: Emanuele Di Biase, pasticcere prima al dolce vegan di Firenze e ora al Nandas di Lucca, Gabriele Palloni, chef della Gabbia Matta, ora in transizione con la sua proposta Cibarius, e Simone Salvini, chef del ristorante stellato Gioia di Milano, adesso all'Ops di Roma. Ovviamente all'incontro sarà abbinata una cena gourmet all'altezza della situazione. Per tutte le info, sempre il blog restiamoanimali.wordpress.com. Il prossimo appuntamento con Restiamo Animali è per giovedì 25 luglio 2013 alle 9.30 del mattino. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.